vento nella nebbia, mi sento soffocare, tradito dallo spettro del mio vagabondare. Come foglie in autunno cadono le mie speranze, e il sogno nel tramonto è volato via nel vento. Rivolti a lei, ai suoi occhi, al suo